Allora, l'argomento di questa sera è verrà un po' stravolto, nel senso che vi dirò alcune cose sulla fortuna di Foucault o sulla sua ricezione o sul modo in cui è stato letto nel corso della sua finché era vivo e poi dopo, okay? E però cercherò anche obiettivamente di affrontare alcuni temi che ho visto che sono emersi, alcune difficoltà che sono difficoltà anche per me, non credo siano solo per voi, sono difficoltà di chiunque si voglia rapportare a un pensiero e a un insieme di pratiche, perché ci sono state anche le pratiche nella vita di Michel Foucault, così denso, insomma, le difficoltà che il pensiero di Foucault suscita in realtà sono probabilmente diverse da quelle che ognuno di noi pensa, però bisogna tenere conto anche di queste, bisogna tenere conto delle incrostazioni che nelle nostre menti, nelle nostre abitudini, come diceva Hume, l'abitudine è la vera madre della verità, del pensiero. Le cose che noi pensiamo non sono altro che cose che ci sono capitate, e quindi per abitudine. E siccome io credo, sono convinto, più lo studio in questi anni, mi sono convinto che quel discorso, il discorso foucaultiano, è stato, con tutti i suoi limiti, ma è stata la presa d'atto e il rovesciamento più radicale della più gran parte di quelle abitudini mentali che tutti noi abbiamo acquisito, quelli della mia generazione, più di voi, diciamo, giovani, insomma. E quindi questo sarà, affronterò tutti e due questi temi che sono ovviamente collegati, perché le difficoltà che ha avuto il pensiero di Foucault a essere assorbito, a essere compreso, a essere e quindi le difficoltà che tutti gli ambienti culturali e politici hanno avuto nel rapportarsi, nel confrontarsi con il pensiero di Foucault, in realtà derivano proprio poi dalle cose che cercherò di dire in fondo. Allora, per cominciare, leggerò un articolo che è abbastanza breve, che alcuni di voi conoscono già, ma chi lo conosce ripassa, che è uscito all'inizio di quest'anno, il 7 gennaio del 2012, sulla Repubblica, a firma di Pieraldo Rovatti, in occasione esattamente della nuova pubblicazione, della nuova edizione dell'Histoire de la Folie à l'âge classique, Storia della Follia nell'età classica, che è stato presentato lunedì scorso. Io avrei voluto andare, ma le mie condizioni non me l'hanno consentito, e comunque mi dicono che è andata molto bene. C'era la presentazione con Mario Galzigna, che è quello che ha curato la cosa. Allora, Pieraldo Rovatti, come poi vi dirò, è una delle persone chiave per capire la fortuna di Foucault e la comprensione di Foucault in Italia, quindi è particolarmente autorevole nel dire. E adesso vedrete, chi non lo conosce vedrà qual è il tono di questo articolo. Il 1961, poco più di 50 anni fa, fu un'annata eccezionale. Esce Folie et des raisons di Michel Foucault, sì, prima ho detto l'Histoire della Folie che non esiste, il titolo originale è Folie et des raisons, follia e sragione. Esce Folie et des raisons di Michel Foucault, ovvero la storia della follia nell'età classica, il primo dei suoi grandi libri, il capolavoro. Ma escono anche altri libri epocali, come I dannati della terra di Frantz Fanon e Asylums di Erving Goffman. Il primo, il libro di Frantz Fanon, è il libro più radicale che sia stato scritto, non è mai stato eguagliato, sull'anticolonialismo, e tutta una generazione, compresa la mia, si è formata su quel libro e sulla violenza, sulla radicalità dell'impostazione di lotta anticoloniale, che era una radicalità che andava spesso a colpire addirittura più i colonizzati che i colonizzatori, perché diciamo Fanon, che era un militante della resistenza algerina, e insomma è un gran libro. Mentre Asylums di Erwin Goffman, Asylums, è stato il primo grande lavoro di questo sociologo che ha inaugurato lo studio delle cosiddette istituzioni totali, in cui poi Folie et raison di Foucault si inserirà. Riprendiamo Rovatti. Tutto sembra girare attorno alla condizione del malato mentale e alla critica delle istituzioni psichiatriche, e bisognerebbe ricordare anche che nello stesso 1961 Franco Basaglia inizia a Gorizia quella straordinaria avventura che porterà alla chiusura del manicomio di Trieste e alla legge 180, 15 e no, quasi 20 anni dopo. Ma c'è molto di più, qualcosa come un cambiamento di passo nella consapevolezza culturale, proprio grazie a una riflessione radicale sugli internati e sugli esclusi. La storia della follia di Foucault venne subito tradotta in italiano, non scomparve mai dalle librerie, adesso disponiamo anche finalmente di una edizione completa senza tagli né omissioni, sempre per la Burrizzoli a cura di Mario Galzigna. Tuttavia quest'opera così importante è rimasta marginale, spesso svalutata, persino dimenticata. Non è mai entrata davvero nel dibattito teorico, come se su di essa fosse calato subito una specie di interdetto che poi si è perpetuato negli anni, al punto che c'è da chiedersi se ancora oggi, quando ormai Foucault è per tutti diventato un classico, non ne resti un'ombra consistente. Gli storici hanno storto il naso, i filosofi hanno il più delle volte fatto spallucce domandandosi quale fosse il succo teoretico di quelle 500 pur affascinanti pagine. Storia di un silenzio, il silenzio sulla follia, racconto di come dal grande internamento del XVII secolo sia nata la moderna psichiatria, elogio post-romantico di alcuni grandi folli, da Hölderlin a Van Gogh ad Artaud, intesi come voci che gridano nel deserto, non erano cose per palati filosofici, né per quegli intellettuali impegnati che avevano da fare con il marxismo umanistico. Neppure nel 68 la storia della follia venne presa davvero sul serio. La leggevano soltanto alcuni operatori intelligenti immersi nelle loro pratiche specifiche, e non erano neanche tanti. Foucault, con il quale Sartre polemizzava, rimase a lungo lo strutturalista Foucault, quel provocatore che aveva sentenziato nelle ultime righe di Le parole e le cose, 1966, la morte dell'uomo. Lentamente in seguito cominciarono a circolare le sue parole chiave: archeologia, genealogia, pratiche discorsive. Intanto lui era entrato nel prestigioso Collège de France e di lì a poco avrebbe fatto capire anche ai sordi che il suo programma teorico aveva di mira essenzialmente il potere e l'obiettivo di costruire una inedita microfisica del potere. L'etichetta di strutturalista sbiadiva così ridicolmente davanti a libri come Sorvegliare e punire e La volontà di sapere, per non parlare degli ultimi corsi dedicati alla biopolitica e al governo di sé e degli altri, fino all'ultimissimo del 1984 sul coraggio della verità, appena tradotto, di cui vi ha parlato Amos l'ultima volta. Foucault è oggi noto e apprezzato in tutto il mondo, ha fornito strumenti di lavoro ad una moltitudine di ricercatori, eppure l'interdetto non sembra del tutto caduto. Ogni volta all'inizio dei suoi corsi Foucault ha ricordato con incredibile chiarezza espositiva le tappe del proprio itinerario, una linea di ricerca senza salti che va dalla follia alle prigioni, alla sessualità, attraverso un'indagine paziente dei dispositivi sociali, delle pratiche che le fanno funzionare, piuttosto che sulle filosofie generali con cui pretendiamo di afferrare dall'alto le ragioni, di afferrarne dall'alto le ragioni. Ecco dove a mio parere si è annidato il sospetto. Perché Foucault non ci dice cos'è la follia, eh? Cos'è il potere, cos'è la sessualità? Che bisogno c'è di occuparsi del fatto che il folle sia stato trasformato in un malato mentale? Il malato mentale non è forse una realtà per noi acquisita? E perché mai, qui sta l'essenza del sospetto, la malattia mentale dovrebbe agire come un indicatore così importante da trasformarsi in una posta teorica e politica valida per l'intera società? Mi dispiace affermarlo con tanta nettezza, ma porsi domande come queste, rivolgerle a Foucault, vuol dire rifiutarsi di entrare nel suo discorso e nel suo stile di pensiero. significa non mettersi in sintonia neppure con una riga delle migliaia e migliaia che ha scritto. Nonostante tutti ormai gli rendano omaggio, nonostante gli innumerevoli commenti e i prestigiosi convegni a lui consacrati. Se ragioniamo con attenzione sulla mancata ricezione della storia della follia, come in parte ha cercato di fare l'ultimo fascicolo della rivista Out Out, dedicato specificamente a questo nodo, vediamo bene che non ha tutti i torti chi dice che non abbiamo ancora cominciato a leggere Foucault. Allora, vedete che il tono è aspro, è, si potrebbe dire in termini nicciani, forse un po' risentito, c'è un po' troppo risentimento, c'è un po' troppa... però è vero, insomma, noi continuiamo a rivolgere spontaneamente a Foucault domande magari diverse ma simili a quelle che gli rivolgevano i suoi contemporanei, perché non riusciamo ad entrare nella perché non riusciamo a cogliere la radicale inversione di campo che lui ha, diciamo, compiuto nel passare dagli universali alle pratiche, nel passare dalle cosiddette teorie ai discorsi, agli enunciati, e quindi continuiamo, anche quando abbiamo un atteggiamento disponibile, benevolo verso le cose che lui dice, continuiamo a portarci dietro le scorie del nostro universalismo, che sono le scorie del nostro illuminismo, le scorie del nostro cristianesimo, le scorie del nostro marxismo, della nostra fenomenologia, anche quando non abbiamo mai letto né Marx né Husserl, ma ci sono cose che girano per l'aria e si attaccano e si incrostano nella nostra cosa, e continuiamo a rivolgere a Foucault queste domande cretine che Pierandolo Vatti ha così bene elencato qua. Vi racconterò un episodio breve. Appena è uscito questo libro, io ho messo, forse qualcuno l'ha visto su Facebook, ho messo su Facebook questo testo, e una persona, una brava persona sicuramente, un insegnante credo di Monza o della Brianza, che non conosco personalmente ma che è uno dei tanti che mi hanno contattato su Facebook, hanno creato amicizia eccetera, e evidentemente dopo aver letto l'articolo di Rovatti fa praticamente questa osservazione, dice: ma scusate, ma ragazzi, forse ho letto male io, questo Rovatti mi pare un po' uno stronzo, dice, ma che male c'è? Che male c'è? Non è forse vero che la malattia mentale agisce come un indicatore così importante da trasformarsi in una posta teorica e politica valida per l'intera società? Cioè, ancora una volta, diciamo, non capisce il senso del discorso di Rovatti, che dice: guardate che chiedersi questa cosa vuol dire non aver capito, cioè non, è ovvio che è ovvio che c'è bisogno di occuparsi del fatto che il folle si trasformi in malato mentale, è ovvio. Il malato mentale non è una realtà acquisita per noi, è di volta in volta ricreato, è il prodotto di un dispositivo sociale, e quindi tutta la cosa. Perché anche nelle... Allora, e questa incomprensione di Foucault, io direi che comincia presto. Accidenti, però, se non ho portato, mi manca proprio... No, eccolo qua. Allora, in Microfisica del potere, che è un libro che Foucault non ha mai scritto, è una raccolta di scritti di Foucault uscita in Italia nel 77, tra i primi discepoli di Foucault, tra i primi dei suoi, sono stati parecchi italiani, i più importanti di quali erano Alessandro Fontana e Pasquale Pasquino. Pasquino poi è scomparso, non so bene che fine abbia fatto, ci sono altri Pasquino in giro, ma non sono lui. E questa è la piccola raccolta, però è stata una raccolta importantissima perché ha per l'Italia, per, diciamo, la ricezione italiana di Foucault. Questo è stato il primo libro, credo, che io abbia letto di Foucault, grosso modo ai tempi dell'ambiguotopia o l'anno dopo, nel 78 nel 79, e raccoglieva una serie di testi, come dire, dei precedenti. Fra questi testi c'è un dibattito del 72 pubblicato sull'Etampe Moderne, quindi la rivista di Sartre, che è un dibattito sulla giustizia popolare con i maoisti, cioè con alcuni militanti della Cause du Peuple, la causa del popolo, che era il gruppo maoista più rilevante, più influente in quel periodo in Francia. La Cause du Peuple era in realtà il titolo del il nome del loro giornale, il gruppo si chiamava la Gauche Proletarienne, la sinistra proletaria. Il nome è analogo al nome che presero in Italia, che presero il primo nucleo delle Brigate Rosse, prima di chiamarsi Brigate Rosse, il gruppo fondato da Curcio e l'altro di Reggio Emilia, che non ricordo, non con Vero Stagno, si chiamava la Sinistra Proletaria. È la prima volta che comparvero sugli striscioni delle manifestazioni italiane, comparve credo un martello e un fucile, o una falce e un fucile incrociati invece che la falce e martello, insomma, fu questo striscione, però poi durò poco e dopo poco tempo si venne la Brigata Rossa. Però no, questo non c'entra nulla. Il 71 è l'anno in cui Michel Foucault e il suo compagno Daniel Defer, insieme con Pierre Vidal-Naquet e un altro che non mi ricordo, un altro storico che non mi ricordo, formano il Groupe d'Intervention Prison, il GIP, il gruppo di intervento sulle prigioni, e come dire, e a questo questo GIP creò una serie di insomma, fece rumore in Francia. C'è un altro libro che è uscito, che non ho portato, è uscito da poco anche in italiano, che è la raccolta di tutti gli scritti, praticamente tutte le robe del GIP le scrisse Foucault, insomma quasi tutte. Poi Domenache si chiamava, erano Michel Foucault, Domenache, non mi ricordo il nome, e Pierre Vidal-Naquet, che è uno storico dell'antichità come Jean-Pierre Vernant, che ha scritto delle cose anche con Jean-Pierre Vernant. Il clima di quegli anni era diverso da quello di oggi. Oggi in Italia, per esempio, nessun centro, cioè se un centro sociale, voglio dire, forse adesso con il Notav qualcosa sta cambiando, ma insomma, cioè, i centri sociali sono acerrimamente divisi da vecchi dibattiti ideologici di cui nessuno di loro ha la minima consapevolezza, perché hanno tutti 18 anni, 20 anni, 25, anche 30, non sanno nulla, quelli sono il residuo delle robe di 40 anni fa, di 30 anni fa, delle polemiche tra negri, cacciari, tutte le varie componenti della cosiddetta autonomia, eccetera. Ora, certamente Foucault non ha mai avuto alcuna simpatia per il maoismo, né per caso di Dio, però collaborava chiaramente con loro, discuteva anche molto pazientemente, vedrete, per tutta questa, ora tutta questa, perché vi dico, voglio leggere solo due cosine rapide per farvi capire quanto fossero gnocchi questi militanti, appunto, adesso marxisti, dire marxista per un maoista forse un po' eccessivo, insomma, però loro erano convinti di esserlo, insomma. E qui, insomma, nella prima fase di questa discussione discutono sul fatto se si possano fare o no dei tribunali popolari, se ci possa essere una forma di giustizia popolare, no? E chiaramente si vede chiarissimamente che Foucault non gli dice siete una massa di coglioni perché è una persona educata, ma gli dice, gli cerca di instillare dei dubbi, dice ma guarda che ogni volta che fai un tribunale, questa è la sostanza del filosofo Foucault, ogni volta che fai un tribunale metti in opera una logica e un dispositivo che è quello, dice, è inutile che tu lo chiami proletario, popolare, come gli altri pare, sempre tribunale, sempre qualcuno giudice. Adesso questa la dico in maniera semplificata, ovviamente, però lo fa in maniera... E qui quello che parla con lui è quasi sempre questo Victor, che poi Gavi, che poi, qua è solo per nome, Victor, che poi firmerà dopo qualche anno un libro con Sartre addirittura, Sartre scriverà un libro con lui, come, vabbè, insomma, e qui c'è questa cosa, Victor dice, e perché lui gli fa, dice Foucault, dice, nel caso di una massa, di una giustizia popolare non hai tre elementi, hai le masse e i loro nemici. Qui Foucault usa il termine di massa perché era quello che si usava allora, adesso non facciamogli le pulci, perché cioè, anche lui doveva farsi capire da quelli con cui insomma parlava. E dice ancora: le masse, quando riconoscono in qualcuno un nemico, quando decidono di punirlo o di rieducarlo, non si riferiscono a un'idea astratta della giustizia, si riferiscono solo alla loro esperienza, quella dei danni che hanno subito, del modo in cui sono state lese o oppresse. E infine la loro decisione non è una decisione d'autorità, cioè non si appoggia su un apparato di Stato che ha la capacità di far valere delle decisioni, la mettono puramente e semplicemente in esecuzione. Dunque io ho tutta l'impressione che l'organizzazione del tribunale, almeno in Occidente, deve essere estranea alla pratica della giustizia popolare. Quindi qui Foucault dice: prendo per buona questa vostra bizzarro termine di giustizia popolare, ma per favore non facciamone un tribunale, perché non... E Victor risponde: non sono d'accordo, tanto sei concreto su tutto delle rivoluzioni fino alla rivoluzione proletaria, altrettanto diventi completamente astratto per le rivoluzioni moderne, comprese quelle occidentali. Ecco perché mi sposto di luogo e ritorno alla Francia. Alla liberazione si sono avuti diversi atti di giustizia popolare. Prendo di proposito un atto equivoco, un atto di giustizia popolare reale ma equivoco, cioè un atto manipolato nei fatti dal nemico di classe. Se ne trarrà la lezione generale per precisare la critica teorica che faccio. Il fatto è una cosa che successe anche in Italia e fu una reazione spontanea dopo la liberazione dal neonazismo, quindi dopo il 25 aprile in Italia, dopo non so che giorno era, diciamo in Francia, in cui le collaborazioniste, cioè le donne che avevano collaborato, e chiaramente si presupponeva, magari forse non era vero, in gran parte lo era sul piano sessuale, con i diciamo nazisti, venivano insomma, come dire, bruscamente, spontaneamente, così venivano prese, provate in giro per la piazza, e in genere venivano rasate. La rasatura era il simbolo di questo genere di cose. Ora, perché Victor, in che senso Victor critica questo genere di cose? Non tanto perché siano state rasate o sia questa cosa, ma perché è una cosa che è stata fatta al di fuori di una struttura, al di fuori di una istituzione proletaria, popolare, eccetera, eccetera. Non gli hanno fatto un processo, insomma. Se gli facevano il processo, questo è il succo della cosa che dice. Più in là discutono sulla cosiddetta contraddizione fondamentale, perché i maoisti soprattutto avevano sta fissa di la contraddizione fondamentale. Allora, già contraddizione è un termine hegeliano, come ovvio, insomma, passato poi attraverso il marxismo ne fa uso, anche Marx ne ha fatto uso, come dire, spessissimo, ed è un termine di tipo dialettico, cioè secondo questo poi ci sono altri aspetti del pensiero di Marx che vanno anche contro a questa cosa, ma quando Marx spiega che in qualche maniera la rivoluzione proletaria, cioè lo sviluppo, l'arrivo ad una società senza classi, è l'esito di un processo appunto dialettico che consiste nella maturazione delle contraddizioni, le contraddizioni maturano, quindi c'è il positivo, il negativo, è tutto lo schema di Hegel, insomma, no? Eccetera. Allora, quando uno va poi a fare lo studio specifico nella storia, dice, ma ce n'è tante di contraddizioni, no? E allora, sti maoisti, che erano materialisti molto volgari, cioè nel senso molto gnocchi, insomma, molto, non molto agili, insomma, da un punto di vista con le categorie, allora dicevano, hanno cominciato a dire, allora ci sono le contraddizioni. Molte di queste cose stanno in realtà in parte già nel pensiero di Engels. Engels era molto più era molto meno agile su alcune questioni, su alcune cose diciamo intellettualmente di Marx, e siccome Engels è sopravvissuto a Marx, in realtà è quello che ha la persona storica, insomma, della coppia che ha influito di più sulla formazione della prima grande socialdemocrazia, del primo grande partito operaio europeo, il partito socialdemocratico tedesco, è stato ovviamente Engels e non Marx. E quindi tutte le rigidità, diciamo, di Engels, che trovate nell'Anti-During e in tutta una serie di altre opere scritte soltanto da Engels. Engels ha scritto un'opera bellissima che è una sorta di inchiesta, che è La condizione della classe operaia in Inghilterra, che scrisse quando era giovane. Poi le cose che scrisse da solo quando era morto Marx, sono tutte robe molto... E c'era questa questione, quindi in parte deriva da Engels questa cosa, di andare a cercare la contraddizione principale. E a un certo punto Foucault gli spiega, dice, questa condizione che tu richiami, perché Victor gli dice, tu dici è un fattore tra altri, non è la contraddizione principale, ma tutti gli esempi, tutta la storia dei meccanismi che tu descrivi tendono a valorizzare questa contraddizione. Per te il primo patto del proletariato col diavolo è di averne accettato i valori morali, attraverso i quali la borghesia instaurava la separazione tra la plebe non proletarizzata e il proletariato, tra la canaglia e i lavoratori onesti. Io ti rispondo no. Il primo patto col diavolo è stato delle associazioni operaie è di avere posto come condizione di adesione il fatto di appartenere ad un mestiere. È questo che ha permesso ai primi sindacati di essere delle corporazioni che escludevano la massa degli operai non specializzati. Quindi voi capite, erano, cioè Foucault dice, guarda che in realtà il proletariato, quando comincia ad organizzarsi, introietta una parte dei valori morali della borghesia, gli cambia solo di segno, ma non è, e questo è il suo grosso limite. Mentre invece Victor dice no, è un limite, direbbe in termini appunto marxiani, strutturale, perché è la struttura che determina la sovrastruttura. E quindi Victor nega che, diciamo, l'accettazione del primo proletariato, del proletariato storico, della morale borghese sia la contraddizione principale. Allora è una stupidaggine ovviamente questa cosa, la contraddizione principale, perché non, se uno sta a pensare al principale e al secondario non esce più, e siamo a fare le classifiche delle figurine, questo vale di più, questo vale di meno, insomma è un sotto... Però insomma, come dire, vedete quanto è paziente Foucault, e Foucault risponde: questa condizione che tu richiami è probabilmente la più importante, ma tu guarda che cosa implica come conseguenza. Se gli operai non sono integrati in un mestiere, non sono presenti nei sindacati, a fortiori non lo saranno quelli che non sono proletari. Dunque, se poniamo ancora una volta il problema come ha funzionato l'apparato giudiziario e in modo più generale il sistema penale, io rispondo: ha sempre funzionato in modo da introdurre contraddizioni in seno al popolo. Guardate sempre che lui sta usando la terminologia di quegli anni, non è la sua, però dice: devo discutere con voi, discuto con voi. Introdurre contraddizioni sono al popolo. Non voglio dire, sarebbe aberrante, che il sistema penale ha introdotto le contraddizioni principali, ma mi oppongo all'idea che questo sistema sia una vaga sovrastruttura. Esso ha avuto un ruolo costitutivo nelle divisioni della società attuale. Adesso, da un punto di vista storiografico, se voi andate a guardare quello che succede storiograficamente, è ovvio che Foucault aveva 10.000 volte ragione, perché in qualche maniera il germe del perbenismo, della accettazione del modo di pensare della borghesia, cioè della morale corrente, ha significato per il proletariato in quel periodo, parliamo degli ultimi anni dell'Ottocento, ha una rottura perseguita, teorizzata, praticata, molto rigida, molto forte con il sottoproletariato, cioè con la massa degli esclusi, con i vagabondi, con quelli che non lavorano, insomma, no? E adesso non c'è, ma dietro a tutta questa cosa c'è questa maledetta mistica del lavoro, di cui i sindacati, tutti, compresa la CGIL, compresi i sindacati di base oggi, che si riempiono la bocca e dicono: ah, il lavoro, dobbiamo lavorare. Ma dove dobbiamo lavorare? Ma chi l'ha detto? Dove sta scritto che il lavoro è ciò che ci nobilita? Il lavoro non nobilita nessuno, cioè meno lavoriamo, è ovvio che è meglio, che meglio il lavoro, è schiavitù in genere, sotto qualsiasi cosa. Allora voi capite che qui c'è la messa in discussione di struttura sulla struttura, la messa in discussione, c'è tutto quel, però gli interlocutori non lo capiscono proprio. Sia detto senza acrimonia e senza, ma neanche gli allievi di Foucault in una prima fase capiscono bene. Uno dei suoi principali allievi è François Evald, che ancora oggi cura alcune idee, credo che abbia curato due o tre, adesso non c'è Amos che lo sa meglio di me, ma insomma Evalde era praticamente assistente di Foucault al Collège de France ora è interessante ed è interessante l'edizione italiana. Dunque, questo Evalde scrive due saggi che compaiono su Critique, una rivista francese, uno nel 75 e uno nel 77. E quindi uno esce praticamente, sì, no, tutti e due escono dopo Sorvegliare e Punire, sono un commento principalmente a Sorvegliare e Punire. Rovatti, che all'epoca dirige una piccola collana per Feltrinelli che si chiama Opuscoli Marxisti, in cui c'erano effettivamente un sacco di cose, un sacco di materiali marxisti, c'era Stefano Merli, c'erano un sacco di insomma, persone così, però diciamo, c'erano delle cose, c'era Alquati, c'era gran parte dell'autonomia, però c'erano i tedeschi, c'era Klaus Hoff, però ogni tanto ci esce qualcheduno, qui c'è una roba di François Evalde su, diciamo, Foucault. Naturalmente, come dire, insomma, diciamo, Rovatti fa un'introduzione, ve lo leggo solo per, diciamo, l'introduzione. Allora, certo, nel 77 e nel 79 non è ancora forse chiarissimo, però Evalde era a contatto più stretto con Foucault, insomma, di noi e anche di noi, di me, è ovvio, insomma, anche di Rovatti, quindi forse avrei voluto capirlo un po' meglio. Insomma, tutta l'impostazione di questa cosa è tutta basata sul tema del corpo, ma come se il corpo, cioè si dà una lettura che è poco foucaultiana del tema, diciamo, del corpo, cioè si tratta il corpo come se il corpo fosse una sorta di entità metafisica, come una parte del movimento femminista all'epoca lo trattava, non tutto certo, ma alcune componenti, quelle che erano più influenzate da una tradizione marxista e di cui volevano liberarsi, ma per liberarsene, come dire, andavano un po' troppo dall'altra parte. Adesso la introduzione di Rovatti a questa cosa, che è del giugno 79, finisce così. Curiosamente le analisi di Foucault girano intorno a quell'avvenimento sul quale da due secoli il discorso politico si è costituito, la rivoluzione francese, e tuttavia egli non ne parla mai. Il fatto è senza dubbio che il problema politico non si trova là dove si era soliti porlo, nella morte di Luigi XVII, nella conquista del potere da parte della borghesia, ma nell'avvento, attraverso delle lotte che hanno contemporaneamente preceduto, fatto e seguito, quella che viene chiamata la rivoluzione, di quel regime di identità e di verità che è ancora il nostro. La nascita di tali regimi di verità che comandano poi la vita degli uomini, che decidono quel che si deve e quel che non si deve fare, quel che è bene e quel che è male, vero e falso, giusto e ingiusto, che in una parola definiscono la migliore condizione di esercizio del potere, è tutto questo che oggi Foucault, alla luce degli avvenimenti iraniani, poi era già stato in Iran e quindi aveva già dato scandalo appoggiando Khomeini, chiama spiritualità. Reintrodurre la questione della verità in politica non significa dunque nient'altro che considerarla dal punto di vista della spiritualità. Questa parte, ma tutta l'introduzione di Trovati, stride fortissimamente con, diciamo, la lettura apparentemente materialista di Evalde sul diciamo, discorso insomma, foucaultiano. Ma la cosa, vi ho portato due cosine perché sono delle curiosità, delle rarità, sono cose che sono poco importanti dal punto di vista, non sono nomi che, cioè già la critica roditrice dei topi si è abbattuta su molti di questi libri, anche se io nel caso mio ho preservato dai topi dell'area, diciamo, caronia per questa cosa. Allora, il libro che vediamo adesso si chiama Linguaggio, potere, individuo, saggio su Michel Foucault, è uscito per te da Lolibri ed è stato scritto da questo signore che si chiama Vittorio Cotesta, esce nel 79 pure lui. Quindi vedete, sono negli anni in cui negli anni fra il 77, insomma, fra il 75 e il 77 non è Foucault nei movimenti europei il pensatore, virgolette, più di moda, è Deleuze. Perché Deleuze e Guattari nella sua versione Guattari. E il testo fondamentale che è più di Vedra, è l'Anti-Edipo, testo che io ci metto il polmone destro sul fuoco, rischio poco, che nessuno ha mai letto, perché è difficilissimo. Io provai a leggerlo nel 77-78, cioè insomma morivo, è molto complicato, bisogna conoscere bene Freud, bisogna conoscere, qualcosa. Però c'era questa cosa, l'antipsichiatria, molta della popolarità di certi testi era dovuta principalmente ai temi che affrontavano. Poi dopo uno non è che andava a vedere, cioè non è che era tanto, diciamo, preciso nell'andare a vedere quello che c'era scritto, non so, Anti-Edipo, con sua psicanalisi, bene, quindi tutto così. Foucault, però stranamente invece, Foucault comincia ad acquistare più negli anni subito dopo il 77, almeno qua in Italia, credo anche un po' in Francia. Quindi vi sto parlando, questi qui sono tutti testi usciti, vabbè, Microfisica Potere è uscito nel 77, ma questo di Evaldo è uscito nel 79, questo di Cotesta nel 79. Leggiamo chi è questo Cotesta, è un mio coetaneo, quindi all'epoca era veramente giovane. Lavora presso la cattedra di scienza della politica della facoltà di magistero dell'Università di Roma. Si è dedicato allo studio della filosofia francese contemporanea, va bene, con particolare riguardo alla connessione tra sapere e organizzazione del potere. Su questo tema ha pubblicato saggi articoli in diverse riviste italiane. Se voi decodificate questa parte di copertina, è uno sconosciuto, vuol dire, perché non ha scritto nulla e non possiamo neanche dire che cosa ha scritto, perché non mettiamo neanche. Però comunque è uno che si mette lì e scrive un libro, Dio buono. Allora, nel 79 che cosa è uscito di Foucault? È già uscito praticamente tutto, tranne gli ultimi due libri che escono nell'84, quindi è uscito non solo Sorvegliare e Punire, ma è uscito anche La volontà di sapere, che esce nel 76, quindi praticamente il modo... Allora, in realtà però, qual è il problema di questo signor Cotesta? Il problema è che, come dire, si vede che Foucault in fondo, diciamo, gli piace, esercita un fascino di lui, perché lo commenta, però accidentaccio, Foucault non è marxista. E quindi questo libro è un'arrampicata sugli specchi e sui fili per provare a conciliare in qualche modo, ma quando non ce la si fa, allora proprio come extrema ratio si dà un po' di botte bonarie però sulla testa di Foucault, dicendogli: ma che, pensaci un po' meglio sopra, vedrai che se poi ti metti sulla... E adesso vi leggo una breve frase che... Al marxismo quindi Foucault contrappone una sua visione del potere e della lotta contro di esso. Già questa frase non è che contrappone il potere, gli contrappone ben altro. All'organizzazione operaia, sindacale e politica egli contrappone il carattere nomade della lotta politica. Alla teoria critica della società e dello Stato egli contrappone l'analisi locale e la lotta locale. Infine la centralità della classe operaia nel progetto di trasformazione socialista egli contrappone il rifiuto del progetto e la centralità del corpo, della plebe nella resistenza al potere. In breve, come Foucault stesso afferma, ad un'analisi della formazione economico-sociale condotta a partire dalla forma del rapporto di produzione, egli sostituisce un'analisi delle forme del dominio condotta a partire dal rapporto politico. Foucault fa giocare Nietzsche contro Marx, o se si vuole ingloba Marx in Nietzsche. Mentre invece, ecco la zampata di Cotesta, mentre invece l'unico rapporto possibile è porre Foucault-Nietzsche dentro Marx. Fortuna che è arrivato lui e quindi siamo a posto. Cioè l'analisi del potere istituzionale va integrata nell'analisi della formazione economico-sociale. La forma del rapporto di produzione contiene la forma del rapporto politico, ma non poggia su di essa. Viceversa, Foucault ha posto la volontà di potere a fondamento delle relazioni sociali. È costretto allora a definire il sociale mediante il politico. La forma del potere infatti è coestensiva alla forma sociale, il sociale e il politico coincidono. Allora voi capite che quando, qui dov'è l'incomprensione? È sul fatto di commentare, di tentare di seguire le analisi foucaultiane, non cambiando attrezzi, non andando a prendere qualche altro attrezzo la settimana che c'è lì, ma usando gli stessi che si usavano per Marx. Allora, grazie all'anima, che se il mio punto di partenza è che c'è una priorità della struttura economico-sociale sulla sovrastruttura, tutte le robe di Gustave Foucault le chiamerò sovrastruttura e poi dirò bisogna tirare Foucault dentro Marx, Foucault e anche Nietzsche, diciamo, dentro Marx. Ma il punto è che Foucault non ha fatto questo lavoro. Foucault ha messo in dubbio esattamente il carattere di sovrastruttura di tutte le cose di cui si è occupato. Ha cercato di fare un'analisi delle pratiche tali dalle quali l'analisi delle pratiche generasse non delle teorie nuove, ma delle categorie, quelle che si chiamano. Foucault ha usato qualche volta il termine teorie locali, l'ho usato anch'io, se Giuliano se lo ricorda, insomma, nella prima cosa che scrissi, quelle poche righe che scrissi a proposito di Foucault nell'introduzione al nostro libro del 79 sulla fantascienza. Ma in realtà perché non era quello che interessava a Nietzsche davvero, a Foucault davvero questo. Quindi quello che a Foucault interessava era il rovesciamento. Qua non c'è nessuna presa d'atto, cioè non si critica neanche le cose giuste, le cose che magari secondo il signor Fotessa andavano come criticate, cioè poteva essere, ma non critichi le cose. Non cogli il vero spartiacque, il vero salto che ha fatto Foucault rispetto al discorso. Quindi allora questo è un esempio fra i tanti, ed è, credo, insomma, in qualche maniera è il filo, insomma, o uno dei fili della ultima lezione di questa sera, perché Cotesta l'abbiamo detto, e adesso veniamo alla cosa più esilarante di tutte, che è un libretto firmato da Duccio Trombadori. Duccio Trombadori era ed è, credo che sia morto, è il figlio di Antonello, no? Credo, dovrebbe essere il figlio di uno dei più famosi. Giuseppe, è il figlio di Antonello? No? È il figlio. Quello dell'intervista. Quindi, diciamo, come dire, presuntuoso come tutti i militanti del PC, convinto di possedere una teoria. Però, come dire, siccome fa il giornalista culturale, questo è un mio coetaneo, più o meno, c'ha un anno di meno solo, nel 1980-81 credo, va in Francia e dice voglio un po' parlare con questo Foucault, e gli fa una lunga intervista. La quale esce una prima volta, dunque la cosa in realtà lui la racconta, era un lavoro commissionato dall'Unità, poi dopo l'Unità gli dice no, non ci interessa, lui ne fa un librettino che esce per una piccola casa editrice, però ha qualche, insomma, viene comunque diffuso. E poi questa è la nuova edizione, io all'epoca non lo lessi, lo recuperai nel 99 quando venne riedito da Castelvecchi col titolo Colloqui con Foucault. Bisogna leggere quello che dice, perché poi vabbè, insomma, è un personaggio per me sgradevole questo Duccio Trombadori, ve lo dico, perché sennò poi sembra che non dichiaro le mie simpatie. Voglio dire in anticipo che però stranamente in questo caso la supponenza e a volte anche la petulanza con la quale il giovane Trombadori in caso lui dice genera il fatto che però Foucault si spiega, Foucault è uno pazientissimo, cioè non si incazza praticamente mai. Ci sono alcune interviste in cui Foucault si incazza quando dà del cretino a Piaget, ma perché Piaget aveva scritto veramente delle stupidaggini su di lui, eccetera. Ma se no, in questo caso lui non manco sapeva chi era, cioè il PC in Italia gli interessava fino a un certo punto, però capiva più o meno che facciamo. E quindi è un bel libro dal punto di vista, perché molte delle risposte di Foucault sono molto interessanti, ma io ve l'ho portato per farvi capire invece l'atteggiamento con il quale Trombadori va e lo intervista. Nella introduzione, che è un'introduzione scritta scritta dopo, scritta nel 99, scritta nell'81, quindi è la stessa, è la prima dell'81, quindi, perché poi nel 99 Trombadori, anche il giovane non è più dentro il PC, se n'è andato, come tutti le storie. Adesso forse sbaglio, ma mi sembra che è una storia che può essere simile a quella del Ciccione lì, come si chiama, insomma. Di Ferrara, grosso modo. Io l'ho conosciuto, no? Che forse l'ho anche litigato fisicamente. Si dice che sì, no, ma infatti, così. Allora, sentiamo cosa dice. Il colloquio con Foucault fu per un piccolo e inquieto marxista italiano, tra virgolette, come me, una specie di scoperta. Misurai il suo metodo di lavoro, mettendo a confronto punti di partenza e di approdo con i passaggi principali del pensiero moderno. Ma soprattutto mi medesimai nel dramma di quel disperato positivismo che indagava sui sistemi disciplinari. Disperato positivismo, no, positivismo felice, lo dice di se stesso Foucault, che io sono un positivista felice, positivista ovviamente dal punto di vista, no, non certo dal punto di vista di Comte. Nel dramma di quel disperato positivismo che indagava sui sistemi disciplinari, sui fondamenti delle scienze umane e sulle identità sessuali per indurre il sentimento di indeterminatezza dei saperi e della verità come puro e semplice effetto di potere, tra virgolette effetto di potere. Il suo modo analitico e pure metaforico, nella esposizione del pensiero aveva la virtù dello storico delle idee e dello storico delle idee, cioè se Foucault avesse letto questa introduzione dopo l'avrebbe preso il storico delle idee a Foucault, cioè ha passato mezza arcologia del sapere a spiegare che l'archeologia è l'opposto della storia delle idee, no, storico delle idee gli dice, e dell'esteta, vabbè. E dell'esteta. Il testo scritto poi assumeva un fascino del tutto simile a quello della poesia, e là là. Il suo modo di essere fedele a Nietzsche, usare la razionalità come pretesto per l'esperienza artistica, perché il fondamento non appartiene alla forma logica, bensì alla vitalità che essa pretende di imbrigliare. Il fondamento, qui non c'è scritto che Foucault rifiuta il fondamento, no, che trova il fondamento da un'altra parte, non nella usare la razionalità come pretesto per l'esperienza artistica, perché il fondamento non appartiene alla forma logica, bensì alla vitalità che essa pretende di imbrigliare. Si trattava per lui di maltrattare la ragione, ridurla a puro strumento, senza elevarla a supremo coronamento del gioco sottile della verità. Mi ha sempre colpito in proposito notare l'avversione e al tempo stesso il rispetto timoroso provato dal nietzscheano Foucault nei confronti del dialettico Hegel, così come egli dichiarò nella famosa lezione sull'ordine del discorso tenuta il giorno del suo insediamento a Collège de France nel 71, in realtà è nel 70, ma qui la data è sbagliata, non è questo il problema. La tensione libertaria si traduceva in un processo, si traduceva in un processo alla ragione, come mistificazione dei pratici effetti di verità prodotti da una storica organizzazione del sapere. La rivolta contro la dialettica dell'illuminismo si manifestava con un appello all'inesprimibile, ai centri prelogici della volontà come resistenza al potere del discorso razionale. Direi che basta così. Allora, questo è il peggior Lukács. Cioè è il Lukács più ortodosso, è il Lukács dei passaggi più biechi della distruzione della ragione, non il Lukács giovane della teoria delle forme, dell'anima delle forme e della teoria del romanzo, in cui c'erano delle cose proprio interessanti, ma è proprio il Lukács dell'ortodossia, è l'ortodossia. Ed è, vedete che c'è l'identificazione della razionalità, in genere della ragione, con un modello di razionalità. La ragione è quel modello. Se non si usa quello, se non si usa quella cosa, siete fuori, siete irrazionali, siete fuori dalla ragione. Allora voi capite, però adesso, perché voi dite Trombadori ci fa schifo, è stupido, eccetera, e però questi sono stati i modi in cui, allora c'è stata ovviamente un'eccezione, certamente, diciamo l'eccezione è stata Pierardo Rovatti e il gruppo che si è più o meno riunito intorno a lui, che già negli anni 70 comprendeva Galzigna, sul quale Galzigna, devo dire, è una persona, è uno molto bravo, eccetera, però adesso mi rendo conto di dire delle cose stupide anche un po', ma insomma, però ha un po' un difetto, che è uno psichiatra, e quindi tenta sempre anche la follia, anche l'edizione dell'ermeneutica del soggetto che ha fatto del corso della Francia è molto bella, eccetera, però poi tende sempre anche Foucault oggi, che è il libro di cui Amos vi parla sempre, eccetera, che è curato da Tignani, è uno che conosce molto bene Foucault, però insomma è uno che ha collaborato, adesso dico così. Rovatti è un filosofo che si è occupato di questioni psichiatriche, eccetera, è un altro discorso. Rovatti è il, diciamo, Rovatti è un personaggio di cui andrebbe, insomma, perché diciamo Rovatti rappresenta la metà dell'eredità della fenomenologia italiana nei primi anni 60. Enzo Paci, che è stato il rappresentante principale della fenomenologia in Italia, aveva due giovani allievi, i quali poi hanno preso strade molto diverse, ma insomma uno è Piero Rovatti e l'altro è Salvatore Vecca. Salvatore Vecca poi è diventato politologo, è approdato al pensiero unico prima del PC, adesso del PD, eccetera, ma insomma, mentre invece Rovatti ha sempre maturato la sua. Però praticamente non hanno fondato, perché Out è stata fondata proprio da Enzo Paci in quanto tale, però Enzo Paci è morto poco dopo, insomma, quindi praticamente già fin dai primi numeri sono Rovatti e Vecca che prendono in mano le cose, poi Vecca se ne va nel periodo in cui, e negli anni 70, insomma, e insomma Giuliano se lo ricorda bene, Out divenne una specie di, noi pensavamo erroneamente, molto probabilmente, però veniva percepito così, come una sorta di diciamo organo teorico dell'autonomia, insomma, cioè dell'operaismo italiano. Ci scrivevano effettivamente molte persone, fu la rivista che ospitò i primi studi seri di tipo storico sull'operaismo, cioè sul gruppo dei Quaderni Rossi di Panzieri, eccetera, su tutta la storia, insomma, quindi però in realtà, perché quello era il clima, come dire, bisognava giustamente, ma poi non per una, cioè non per una, come dire, furberia o per una furbizia, perché effettivamente, probabilmente in quegli anni lì, queste erano forze vive con cui si doveva giustamente dialogare. Quindi Rovatti ci dialoga, però adesso vi ho portato qua tre numeri, tutti e tre abbastanza vecchi, uno è datato settembre-dicembre 78, l'altro gennaio febbraio 81, l'altro maggio-agosto 83, quindi sono tre numeri che escono tutti e tre quando è ancora vivo Foucault, quando sono già uscite le opere, però quando ancora non si conoscono concretamente, perché ancora vanno avanti i corsi al Collège de France. Allora, il numero della fine del 78 si chiama Potere e Sapere, materiali di ricerca genealogica e interventi critici. Dice nella... in realtà è sempre Galzigna, non è mai Rovatti che introduce questi, in genere questi numeri, diciamo, speciali, però è ovvio che dietro, allora, ci sono, per esempio su questo numero qua è la prima volta che viene pubblicato un pezzo del corso al Collège de France sulla nascita della biopolitica, in cui si parla della governamentalità, che è uno dei concetti che noi non abbiamo sviluppato perché ci mancava il tempo, ma che è una delle cose cardine, degli sviluppi cardine di Foucault per la, come dire, biopolitica. E poi ci sono, ovviamente, c'è Fontana e Pasquino che scrivono, poi c'è Giovanna Procacci, c'è Robert Castel, c'è Deleuze, c'è Donzelò, Marchetti, Galzigna, Antonio Prete, che era uno studioso, c'è anche Antonio Negri, insomma, ma c'è una, allora, vengono, questa roba, uno, come dire, si leggeva questo fascicolo qua e veniva informato su un dibattito vivo, cioè su testi nuovi di Foucault, su un aggiornamento. Nell'81, nel gennaio-febbraio 81 esce questa cosa che si chiama Storia, Saperi, Strategie, con un pezzo di Ginzburg, Carlo Ginzburg, che è uno storico che in quel periodo aveva appena pubblicato un saggio all'interno di un libro che si chiama Eclisse della ragione, e il saggio si chiamava Spie, nota per un paradigma indiziario che fu uno dei delle cose che rinnovarono lo studio della storia in Italia in questo periodo, ma che era molto critico nei confronti di Foucault. Quindi c'è una discussione praticamente di fatto un po' dal, come dire, lontano tra Foucault e lui, c'è infatti c'è un pezzo di Ginsburg, un testo di Ginsburg, due testi di Foucault, un testo di Vein, un testo di Donzelot. Nell'ultimo che vi ho portato del maggio agosto 83 è addirittura invece sul governo di sé e degli altri, è l'anno in cui Foucault non comincerà il corso in gennaio, lo comincerà in febbraio, l'ultimo corso fatto soltanto nell'84, quindi qui siamo l'anno prima, nell'83 in genere i corsi vengono indicati come X più 1, ma in realtà diciamo che si fa tutte nell'anno X più 1. Però c'è un testo di Foucault che è sulla scrittura di sé, che è un testo probabilmente che gli ha dato Foucault, ma che poi i cui contenuti, parla degli ipopnemata, tutte queste robe qua, vengono poi riversati nel contenuto, diciamo, del corso. Di nuovo Vegetti, che è un antichista, Paul Venn, Galzigna, Salsano, che sarebbe diventato poi direttore editoriale, purtroppo morto prematuramente, della Bollati Boringhieri, Perrault, Alessandro Fontana, eccetera. Aut-Aut è stato il principale, se non l'unico, insomma, strumento reale in Italia di discussione e di studio su Foucault. Poi certamente ci sono state una serie di, come dire, di spin-off, di discussioni, per esempio la biopolitica ha creato grande interesse, eccetera, eccetera, sì, va bene, insomma, ripeto, e in Italia c'è stato un pensatore, un filosofo che si chiama Roberto Esposito, che ha approfondito i temi della biopolitica, poi c'è anche Agamben, ma questo un po' a parte. Diciamo, il paradigma di Esposito si chiama, prende il nome di paradigma immunitario, e praticamente è un, diciamo, tentativo di trasferire nella filosofia politica i funzionamenti degli organismi biologici e in modo particolare la sottocomponente del sistema immunitario. Mi pare però che ci sia, io penso che ci sia, non è che lo conosco tanto bene, insomma, perché ho letto Bios un po' non molto, non ci ho mai meditato a lungo qualche anno fa. Prima i Bios, poi son due i libri fondamentali di Roberto Esposito su questa cosa, uno si chiama Bios. Ora, in realtà però non mi pare che siano tanto pertinenti con il discorso Foucaultiano, perché diciamo, la ricerca di Esposito è un'accentuazione della biopolitica in senso biologico, cioè non c'entra ben poco con il modo in cui Foucault concepiva la bio, insomma, politica. Il concetto di biopolitica in Foucault è un concetto squisitamente di filosofia politica, ma pone l'accento, cioè parte o in qualche modo si concentra sui processi di soggettivazione, cioè sul modo in cui alcuni strumenti, non solo delle istituzioni, ma anche di parti più distaccate, diciamo, del sistema di potere o delle relazioni di potere all'interno della società, contribuiscono a costruire il soggetto utilizzando e manipolando una serie di processi che hanno a che fare, che sono la faccia sociale dei processi biologici, non direttamente la biologia. La biopolitica non è prendere la biologia e trasportarla sic et simpliciter, pari pari, dentro la politica. Mi pare che poi, adesso, questo per dire uno, come ce ne potrebbero essere tanti altri. anche tanti dei anche il dibattito sulla biopolitica in Italia ormai è Mimesis ha pubblicato moltissimi libri, adesso soprattutto Vaccaro e Vinale sono due giovani, insomma Vaccaro giovane neanche tanto, ma insomma della generazione di mezzo, insomma. Quindi sono, però c'è sempre qualche cosa che non mi torna, che non, l'ultima, se non l'ultima, l'ultima ve la dico dopo. Anche quando si trovano dei testi molto favorevoli a Foucault, molto, come dire, benevoli verso Foucault, in realtà c'è sempre un'incomprensione o una sottovalutazione pure lì. Per esempio, questo è un testo di un ricercatore spagnolo, anarchico, infatti è pubblicato da Eleutera in Italia, si chiama Il libero pensiero in italiano, nel titolo dell'originale è molto più bello, non so perché glielo hanno lasciato, è Contra la dominación, variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad que brota del relativismo y de las consonancias entre Castore, il titolo è chiaramente non funziona già così, ma Contro la dominación potevano lasciarlo perché non era, no, mise elogio del relativismo. È un libro in cui, dopo una prima parte in cui si spiega perché perché si deve essere relativista, perché il relativismo non è una parolaccia, e poi nella seconda parte del libro parla di quattro, insomma, pensatori che sono Castoriadis, Foucault, Rorty e Michel Serre. Ora, se voi andate a, per esempio, il pezzo su Rorty è molto bello, fatto bene, cioè io ho capito Rorty, che non ho mai studiato tanto a fondo, insomma, con un valore delle conoscenze vaghe, letto questo libro ne sapevo un po' di più, diciamo, di prima. Ho letto questo libro quando già cominciavo a studiare Foucault, quindi ne sapevo già abbastanza. Il pezzo su Foucault non solo è il più breve, ma è il più insoddisfacente, il più generico, il più, cioè, come se lui non fosse stato capace di capirsi. Sì, dice che combatte contro dei, certo, dice tutte le cose, non è che dice robe sbagliate, ma non fa un corpo a corpo, non penetra, e poi vabbè, l'ultimo episodio è il derridismo italiano. Questo è uscito all'inizio di quest'anno, credo, sì, all'inizio di quest'anno, per l'ETS. Il signore in questione si chiama Enrico Redaelli, vediamo, non c'è scritto quando è nato, ma a occhio è un allievo di Sini, in pratica, di Carlo Sini, e Sini è Derrida in Italia, insomma. È un bel libro fatto bene, parla l'incanto del dispositivo, Foucault dalla microfisica alla semiotica del potere. Appena esce un libro del genere lo compro, lo leggo con grande ansia, perché ci sono delle, come dire, promette una critica radicale a, diciamo, Foucault. In realtà la critica radicale, tutte le magagne che lui vede delle cose di Foucault, di per sé non è male. Tutta la prima parte del libro è utile perché mostra quali sono i punti più deboli anche dell'argomentazione foucaultiana, eccetera, eccetera. Ma poi, come dicevano i latini, desinit in piscem, cioè finisce in coda di pesce. Perché qual è la grande colpa di Foucault? Qual è il grande limite, secondo il professore Daelli, di Foucault? Quello di avere sottovalutato che tutte le cose che lui dice, tutti i dispositivi, perché è un tentativo di commentare il teorema, il concetto di dispositivo, tutti questi dispositivi sono inseriti dentro una nuova egemonia che è l'egemonia della scrittura. Allora, l'egemonia della scrittura. Allora, tutti ovviamente abbiamo letto McLuhan, siamo tutti passati attraverso queste corti caudine, abbiamo pure parlato con De Kerckhove, siamo amici suoi, eccetera, eccetera. Ma insomma, ragazzi, questa favoletta che l'invenzione della scrittura sia stata la roba, la molla fondamentale che spiega qualsiasi cosa ci sia, è tutto, perché è stato il passaggio oralità-scrittura. Nella versione derridiana, poi, che Derrida è tutt'altro che come dire, McLuhaniano, perché la sua concezione della scrittura è molto più radicale di quella ovviamente di McLuhan e non la intende soltanto come una trascrizione del discorso orale, ma come una sorta di attività anteriore. Insomma, la scrittura è ogni volta che si incidono dei segni sulla superficie, quindi c'è una scrittura animale, una scrittura di vario tipo. Ma questo è interessantissimo, ma non c'entra, scusate tanto, non c'entra un beato cazzo con quello che dice Lucozzo. Non c'entra nulla, non mi serve dopo avermi titillato per 200, quante diavolo, 250 pagine, eccetera, eccetera, e alla fine, poi nelle ultime 30, salta fuori che è la roba fondamentale. Allora, quindi voi capite che, insomma, il succo è un po' questo, molte delle, adesso non voglio dire, non è che vi ho fatto un, insomma, sono un piccolo campione del modo in cui è stato letto, insomma, diciamo, riguardato Foucault, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo che cosa manca? Dov'è che e dico da un punto di vista oggettivo, non da un punto di vista, dov'è che il pensiero di Foucault ci sfugge? Dov'è che non riusciamo a identificare il punto? Dov'è che ci facciamo? Adesso io, diciamo, insomma, mi dispiace che il modo in cui abbiamo organizzato questo seminario sia stato tale per cui abbiamo dato poco spazio alla discussione teorica. Se fosse stato concepito il seminario come teorico, l'avremmo fatto, ma siccome lo scopo del seminario è la seconda parte e non la prima, noi abbiamo solo fornito, Amos e io ci siamo limitati a fornire un servizio, cioè delle informazioni e dei, diciamo, concetti, però una volontà diciamo di capire, di confrontarsi da parte vostra c'era ed è emersa ogni tanto giustamente nelle persone che bucano di più, lo strato di neve, insomma, diciamo, i bucaneve ci sono stati, insomma, Maresa, Cristina e altri, e mi pare che in tutte queste domande ci fosse al fondo questa richiesta. Che implicitamente quello che sfuggiva di Foucault fosse, e forse sfugge anche a me, non voglio dire che io ce l'ho già risolto bene, però capisco che quello è, ci sfugge, cioè il modo in cui Foucault riesce a mettere in relazione ciò che è umano da ciò che non lo è. Che è esattamente, e in questo senso Foucault è l'erede più bruciante e più completo e più complesso di Nietzsche, perché è lo stesso problema che si è posto con Nietzsche. Il problema dell'incomprensione del superuomo, dell'eterno ritorno, eccetera, di Nietzsche era esattamente questo. Ma che cos'è quest'uomo? Perché ci parli di superuomo che ancora dobbiamo capire che cosa è l'uomo? Perché ci parli di allora c'è questo ed è per questo, adesso mi tento di riagganciarmi se ce la faccio con i poveri strumenti che ho, purtroppo vi è capitato un insegnante così, non ci potete fare nulla, a quello che ho detto prima. Quindi cercherò di dirvelo come sempre e come lo capisco io, che probabilmente non è il modo più perspicuo che ci sia. Allora, la dirò in questi termini, perché devo costruire, cioè non è che non ce l'ho chiaro, forse non ce l'ho chiaro, vabbè, comunque. Costruiamola così. Noi diamo per presupposto che l'uomo ci sia, anche quando ne ammettiamo il carattere di costruzione storica, anche quando diciamo ma sì, siamo tutti d'accordo, lo sappiamo, il soggetto è il prodotto di una serie di cose storiche, però al fondo, anche se non ce lo diciamo, vale anche per me, ragazzi, non solo per voi, vale per tutti, credo per gran parte di noi, però è qualcosa di cui bisognerebbe cercare di liberarsi, molto probabilmente, perché è quello che ci impedisce di capire Foucault. Dietro noi abbiamo il presupposto che questo processo di costruzione, di emergenza del soggetto, dell'uomo o delle varie forme di uomo, abbia avuto un'origine. Io ho fatto per anni a Brera dei corsi chiamati antropologia, poi dopo declassati come nome a sociologia dei processi culturali, ma insomma che sono i corsi che alcuni di voi hanno diciamo seguito con me, in cui nei primissimi anni il mio punto di partenza era, e mi devo chiedere perché, perché non è che le robe mi vengono, sì, sarà che diciamo giocherello, insomma, ma facevo quasi mezzo anno sull'antropologia fisica, sulla storia della specie, sulle Ruaguran, sui parantropi, sul paleolitico, sulla pietra scheggiata, sul rapporto tra tecnica e linguaggio, eccetera, eccetera. E non ho mai detto neanche una volta, perché sono un po' stronzo, ma non fino a questo punto, non ho mai detto neanche una volta che c'era un'origine dell'uomo e che si potrà trovare il momento magico, o si potrà ricostruire il momento magico in cui qualche cosa che non era uomo era diventata uomo. Vabbè, non ho detto, però forse dietro c'era questa cosa anche in me, c'era questa idea, questa categoria di originarietà, di l'Ursprung, ve lo ricordate? L'Ursprung di Nietzsche, di cui perché Foucault ci rovista, ci rovescia e ci fa così tanta cosa? Perché e allora quando l'ultima volta Maresa ci chiede ma allora cosa c'è dietro? Secondo me dietro, anche dietro a quella domanda, c'è qualche cosa di questo tipo. E io mi rendo conto che è difficile capire e cercare di cogliere, cercare di rapportarsi, non dico di comprendere totalmente, ma di rapportarsi ad un processo eliminando l'idea che sia fondamentale come il processo è cominciato. Ma è esattamente la storia di tutte delle guerre umane o delle ricostruzioni umane della storia. Bisogna sempre dire ma chi ha cominciato? Ma chi ha tirato per primo la pietra? Ma sei stato tu? È stato lui? Ma chi l'ha fatto? Ma chi non l'ha? Perché ci pare che se noi padroneggiamo questo momento, ma questo momento magico. Poi studiando anch'io, la prima volta che leggi le Ruaguran ero gasato, ma poi dopo leggi e ti rendi conto che questo processo ti scompare fra le mani in continuazione, va sempre indietro, va avanti, non sai mai com'è, dov'è, ma non solo nella storia dell'uomo, in tutta la storia della vita sulla Terra e anche lì quando è nata la vita. E perché i biologi non riescono a darci un modello chiaro di quando è nata la vita, di come è nata, del perché è nata? Ma perché sono tutte domande insensate, tutte domande senza senso, tutte domande che ci vietano di capire, che ci impediscono, che sono un ostacolo per capire invece quello che è importante, che è lo sviluppo del processo, che è il modo in cui il processo va avanti, che è il modo in cui in un dato momento e da un momento all'altro le forze in campo, eccola, l'ho detta finalmente, eccola la parola, le forze, gli attori che sono in campo, che noi chiamiamo uomo, che noi chiamiamo società, che chiamiamo Stato, che chiamiamo in tutti i modi possibili, ma in realtà sono delle forze. E allora probabilmente l'unico modo reale per riuscire a sfuggire a questa cattiva metafisica dell'origine, a questa cattiva, a questo malsano desiderio di sapere come è cominciato. Se io fossi freudiano direi che è il desiderio di aver visto papà e mamma che scopano, perché non li abbiamo mai visti papà e mamma che scopano, ma quello è, cioè, secondo Freud, questa è la roba fondamentale, ma è lì, perché è l'origine, prima non c'ero, poi è la quantità di barzellette, quando ero piccolo io, sui bambini nella fase di spermatozoo e nel loro passaggio poi alla vita, è enorme, ma secondo me è tutto sintomo, è tutto... No, nel mio caso era più in avanti, cioè anche sì, no. sulla mia domanda. Non ne dubito che fosse più avanti, però dietro c'era... Sì, poi. Dopo la tua domanda merita comunque una risposta anche più meditata di quella che ti ho dato io così all'improvviso, eccetera, ma insomma, e se ci pensate bene, il correlato di questa... di questo malsano desiderio di padroneggiare l'origine è l'altrettanto malsano desiderio di padroneggiare qualche altra cosa la cui esistenza è dubbia e deve essere data come problematica e non come assodata, e cioè quello che noi chiamiamo l'interiorità, ciò che sta dentro di noi, la dimensione segreta del nostro io. Perché sono collegati? Perché in realtà noi continuiamo a pensare, e il pensiero cristiano e soprattutto gnostico, quel po' di eredità dello gnosticismo che è rimasto anche nel cristianesimo ufficiale, ha fatto questa idea, questa figurazione, è una metafora, è una figura, è un'immagine dell'essenza dell'uomo, cioè dell'anima, della sua umanità, come una piccola scintilla, una piccola scintilla divina che è rimasta dentro di noi, che è quella che ci anima. Non vedete che è l'origine? Non vedete che è la stessa cosa? La nostra interiorità, la nostra dimensione più segreta, più riposta, la nostra capacità di capire noi stessi o di dialogare con noi stessi o di identificare, non è nient'altro che è la stessa cosa di da dove veniamo. Da dove veniamo? Siamo, e allora i materialisti pensano all'ovulo e allo spermatozoo di papà e mamma, certo, i cristiani pensano alla scintilla divina, i buddisti penseranno a non so che cosa, allo pneuma, come gli stoici, eccetera, ma ognuno di noi ha, ed è una cosa di cui è difficile liberarsi, è difficile perché l'abbiamo assorbita, insomma, con latte si dice, l'abbiamo colta in tutti i discorsi che sentivamo quando eravamo piccoli, in tutti i libri che abbiamo letto, in tutti i programmi televisivi, in tutti i videogiochi probabilmente, in tutte, adesso non voglio, ma insomma c'è perché la storia, parliamo dell'Occidente, poi per l'Oriente non ne so abbastanza, nel pensiero occidentale è lunga, è antica questa storia, questa connessione. Noi non siamo capaci, non siamo in grado di cogliere, di trarre tutte le conseguenze più rigorose dal fatto che l'uomo sia il prodotto di un processo storico. Pensiamoci bene, che cosa vuol dire? Se l'uomo è il prodotto di un processo storico, non può avere nulla di interiore, di essenza, non ci può essere, perché tutte queste cose, l'interiorità, l'essenzialità, l'origine, sono tutte cose sottratte alla storia, non stanno nella storia. La storia comincia quando finisce l'origine, è finita l'origine, la storia dell'universo comincia dopo il Big Bang. Il Big Bang è una singolarità, è l'istante nel quale succede, bella roba pure quella, è sintomatico che le teorie, questa è la teoria scientifica, questa è la scienza, il Big Bang, e abbiamo ritirato fuori non la creazione, non Dio, ma abbiamo ritirato fuori l'origine. L'origine è tornata, l'origine ha richiesto ancora una volta il suo tributo di sangue mentale, di cretinificazione dell'umanità, perché questo è il modo per rendere per rendere stupida l'umanità, per instupidirla, per consolarla, per dirgli guarda che anche tu hai un'origine grande, divina, materiale, biologica, non se ne frega nulla, perché veramente da questo punto di vista non cambiano le cose, non cambiano. Allora dire invece che cosa significa dire che l'uomo è il prodotto di un gioco delle forze? Significa che non è il concetto di uomo quello a priori, quello fondamentale, che non ha senso definire prima l'uomo per poter capire che storia ha avuto, perché mai abbiamo avuto bisogno di capire che cosa c'è di preistorico o di astorico per capire, ma perché? Semplicemente perché nulla è sottratto alla storia. Nulla non soltanto dell'esperienza umana, ma nulla della storia di questo pianeta, nulla della storia della materia dell'universo. La storia è l'essenza, il processo è l'essenza, è l'essenza, che parolaccia che dico, lo so, ma è l'unica essenza possibile, quella mi va bene di chiamarla essenza, è quello, l'unica cosa che noi troviamo quando abbiamo sottratto tutte le determinazioni contingenti, eccetera, non troviamo il trascendentale di Kant, non troviamo lo spirito di Hegel, non troviamo neanche la materia di Spinoza, secondo me, per quanto la materia di Spinoza sia fra tutte le idee universalistiche la meno peggiore e quella più suscettibile di una chissà perché Tony Negri, che comunque è un universalista, avrebbe preso Spinoza come suo nome, diciamo, come dire, tutelare, certamente non ha preso Hegel e non ha preso Cartesio, questo ormai che Cartesio è povero, cioè, maltrattato da tutti, nessuno più lo vuole proprio, è una cosa, dopo poi Damasio, vabbè, cioè, da quando un grande neurologo lo ha crocifisso nel titolo di un libro. Ed ecco allora che noi capiamo che se riusciamo a concepire l'uomo davvero come un processo, come un pezzo della vita, come una particolare configurazione, come l'aquilone di Conway nel gioco Life, nella simulazione Life, questo vecchio gioco degli automi cellulari, eccetera, in cui a un certo punto, stranamente, nel senso, esce questa configurazione di caselle che sembra un aquilone, che è metastabile, nel senso che ad ogni passaggio rimane sempre quella, e migra da una parte all'altra dello schermo, che si chiama l'aquilone di Conway, e che nessuno può prevedere quando arriva, che è una delle cose della simulazione. L'uomo come qualsiasi emergenza, come qualsiasi degli attori che si sono succeduti, che si succederanno, diciamo, nella scena della storia della vita, della storia della materia, dell'universo, quando noi parliamo del superamento dell'uomo, quando Nietzsche parla di superuomo, non vuole un uomo nuovo. L'uomo nuovo lo volevano i comunisti, i materialisti dialettici volevano l'uomo nuovo, Gramsci voleva l'uomo nuovo, ma non questo filone, cioè, diciamo, gli essenzialisti, i dialettici vogliono l'uomo nuovo. Noi non vogliamo, cioè, Foucault, Nietzsche non hanno mai parlato di nessun uomo nuovo. L'oltre uomo, l'Uberman, c'è un'altra configurazione diversa che non sarà più umana, che utilizzerà ovviamente il substrato biologico di questi esseri come noi siamo, finché c'è una specie riconoscibile e descrivibile come Homo sapiens, ma che sarà un'altra cosa totalmente diversa, noi andiamo alla ricerca, perché la terza, come dire, conseguenza del pensiero, la terza figurazione che vedo, diciamo, nel pensiero dell'origine, allora una è l'origine, l'altra è l'interiorità, e la terza cosa è la continuità. La continuità. Voi pensate a perché Foucault ha insistito così tanto sulla rottura, sul concetto di rottura, sul concetto di solito, sul fatto, perché E a continuità è ovvio che ci portiamo dietro qualcosa, è ovvio che c'è una base biologica, è ovvio che ci sono una serie di cose che non cambiano, questo è come dire banale, ma è soltanto quando, cioè, come dice Zarathustra, soltanto quando Zarathustra si sarà liberato dai suoi animali e dalla sua scimmia soprattutto, che è la più petulante, la più rompiscatole dei personaggi di, diciamo, quel libro. Zarathustra non è l'ultimo uomo, sempre per parlare della Zarathustra di Nietzsche. L'ultimo uomo è per Nietzsche l'ultima figura della continuità. L'ultimo uomo è esattamente quello che dice: eccomi, io rappresento quello che c'era di buono prima di me e lo traghetto a quelli che vengono dopo. Ma, io credo, ci dica Nietzsche, non abbiamo bisogno di profeti. L'Übermensch non è Gesù Cristo, non è il rabbi, non è il profeta che ha bisogno di chi predica prima di lui. L'Übermensch è neanche il prodotto, l'Übermensch è il processo. Marx ne ha detta una di bella, ne ha bisogno di dire, e questa bisogna prenderla e farla. Il comunismo è il movimento che abolisce lo stato di cose presenti. Purtroppo non è stato questo il comunismo. Ma noi potremmo dire lo stesso del superuomo. Il superuomo, l'oltreuomo, è il movimento che abolisce lo stato di cose presenti. Allora, dove si possono trovare queste cose, almeno dove le ho trovate in modo immaginativo? Nell'ultimo libro in cui uno poteva pensare di, diciamo, trovarle, cioè nel libro di un compagno di strada di Michel Foucault, di un suo concorrente, di uno che aveva delle cose da dire lui, di uno con cui Foucault poi litigò, ma con cui ebbe una grande amicizia e che ebbe sempre nei confronti di Foucault una grande generosità. Non è, diciamo, da tutti scrivere un libro di Gilles Deleuze dal titolo Foucault, due anni dopo che l'oggetto del libro è morto, e facendo seguito, Deleuze, al contrario di Foucault, ha scritto diversi libri su dei filosofi, ma morti e stramorti da un bel pezzo. Ne ha scritto uno su Nietzsche, come è ovvio, ha scritto uno su Spinoza e uno su Leibniz. Non è vero, ne ha scritti quattro. Ne ha scritto uno su Nietzsche, e c'è una umiltà di Deleuze che a me ha commosso nel modo in cui Deleuze si limita, commenta, prende i pezzi, fa le cose, lo porta proprio a... fa un libro di servizio, ti spiega, certo te lo spiega come lo può capire lui e quindi anche dal suo punto di vista come lo può collegare lui con il suo, diciamo, sistema. Ma questa cosa, le cose che vi ho detto male io prima, adesso ve le leggo in una pagina bellissima, secondo me, diciamo, Deleuze, e spero che questa volta finalmente, non dico capiamo, perché non c'è nessun grado, cioè come non c'è un grado zero della comprensione, non c'è un grado, c'è un grado n, ma dopo n c'è n più 1, eccetera, insomma, quindi non c'è una ultimate fantasy, infatti anche nei videogiochi c'è sempre la release dopo, siamo tutti tranquilli che non siamo, però insomma molto probabilmente... ho voluto dirvelo prima perché, e allora sono due pezzi in realtà, spero di avere tempo di leggerli tutti e due. Allora, uno degli assi di questo libro è una come dire, interpretazione, una lettura molto originale di Foucault, perché vi getta, quindi se potete, se insomma, ci avete voglia, volete leggervelo, leggetevelo, adesso è stato ristampato, quindi è di nuovo, per qualche tempo è stato indisponibile, c'è una nuova edizione del 2009, c'è una copertina verde invece che rossa, la mia copia non è ancora arrivata alla libreria Utopia, quindi uso ancora quella di Amos, che è invece più la presa prima, e c'è la copertina rossa. C'è una lettura dell'archeologia e degli enunciati e che non è propriamente, insomma, però che è un modo diverso di vedere il rapporto tra discorsivo e non discorsivo, legando Deleuze con una delle correnti più eretiche della fenomenologia, quella di Merleau-Ponty, che ha scritto un libro chiamato Il visibile e l'invisibile, E la, diciamo, la polarità che in una parte di questo libro Deleuze propone per il pensiero foucaultiano è la polarità di leggibile-visibile. Leggibile, no, scusate, enunciabile-visibile. Ciò che si può enunciare e ciò che si può vedere. E ci spiega, ed è una delle poche volte che ho visto, per esempio, usare una roba che io non sono mai riuscito a fare bene, gli scritti letterari di Foucault, in particolare il libro su Raymond Roussel, che è molto bello, però è come si faceva, invece lui lo integra, lo mette, quindi questo è il presupposto, se no vi dicevo questo rischiavate di, diciamo, non capire quello che dice qua. Parlare e vedere, o meglio gli enunciati e le visibilità, sono elementi puri, condizionati a priori, sotto i quali in un dato momento tutte le idee si formulano e tutti i comportamenti si manifestano. Poi vabbè, ci sono i suoi trip. Questa ricerca delle condizioni è in Foucault una sorta di neocantismo, vabbè. Non è così importante. Tuttavia, con una serie di differenze fondamentali rispetto a Kant, le condizioni sono quelle dell'esperienza reale e non quelle di ogni esperienza possibile. Gli enunciati, per esempio, presuppongono un corpus determinato. Stanno dal lato dell'oggetto, dal lato della formazione storica, non di un soggetto universale, lo stesso a priori è storico. Sono le une come le altre formazioni di esteriorità, formazioni di esteriorità. Ma se neocantismo c'è, è in quanto le visibilità formano con le loro condizioni una ricettività e gli enunciati con le loro una spontaneità. Spontaneità del linguaggio e ricettività della luce. Non basta quindi identificare ricettivo con passivo e spontaneo con attivo. Ricettivo non significa passivo, perché in ciò che la luce fa vedere c'è altrettanta azione che passione. Spontaneo non significa attivo, significa piuttosto l'attività di un altro, che si esercita sulla forma ricettiva. Ma era così già in Kant, lettura benevola di Kant, diciamo, Deleuze, nel quale la spontaneità dell'io penso si esercitava su esseri ricettivi che se la rappresentavano necessariamente come altri. Allora, vi ho letto questo pezzo perché qui secondo me c'è una delle chiavi per poter capire l'aforia che ho posto prima, ed è la questione del fuori, dell'altro. Noi abbiamo nella nostra idea spontanea, nella nostra nozione spontanea di uomo, di umanità, abbiamo un bel dire sì, c'è l'altro, c'è il fuori, eccetera, non c'è nessun fuori. La nostra idea di uomo è talmente totale, è talmente totalizzante, che l'interiorità nostra, l'interiorità dell'uomo, è il faro attraverso la quale leggiamo tutte le cose che stanno fuori, tutte le cose. Quindi praticamente la nostra insolità è quella che uccide il fuori. Il soggetto universale è il modo migliore per uccidere l'alterità, per uccidere il fuori. Ciò a cui è interessato Deleuze invece è questo. Come fa Deleuze ad arrivare a questo? Dice, riuscendo, cioè tentando di mantenere il più possibile separate, disgiunte, le forme del visibile e quelle dell'enunciabile, come due attività che sono complementari ma non possono mai essere la stessa. Il vero non si definisce né attraverso una conformità o una forma comune, né attraverso una corrispondenza tra le due forme. Tra parlare e vedere, tra il visibile e l'enunciabile, c'è disgiunzione. Ciò che si vede non sta mai in ciò che si dice, e viceversa. La congiunzione è impossibile a un doppio titolo, l'enunciato ha un proprio oggetto correlativo e non è una proposizione che designa uno stato di cose o un oggetto visibile, come vorrebbe la logica. Il visibile non è comunque un senso muto, un significato potenziale che si attualizza nel linguaggio, come vorrebbe la fenomenologia. L'archivio, l'audiovisivo, che lui chiama l'archivio dell'archeologia del sapere, diciamo Deleuze lo chiama l'audiovisivo, è disgiuntivo. Detto in altri termini, credo, è impossibile concepire e capire i processi della storia sulla Terra e nell'universo in genere, insomma, nel nostro ambito esperienziale, per quello abbiamo talmente ormai dilatato queste cose che siamo tutti, siamo più calmi. Di quello che noi insomma, nell'ambito diciamo del mondo, nella costruzione del mondo. È impossibile, io credo, capire il carattere integralmente e inequivocabilmente inescapabilmente a cui non si può sfuggire, insomma, il carattere storico di tutte queste cose è impossibile da capire se noi non instauriamo in qualche modo una sorta di topologia, di articolazione, non propriamente di divisione, dello spazio comunque del dominio di azione delle forze, che spieghi come mai, che spieghi o che descriva come mai le forze possono avere l'effetto che hanno. Questo è impossibile finché noi continuiamo a concepire le forze come agenti all'interno dell'uomo. Ma noi è questo che facciamo di solito. Noi continuiamo a concepire anche queste forze come se fossero delle forze umane, perché tutto è umano, eh? Menschliches, allzu menschliches, umano, troppo umano. Dice il titolo dell'opera di Nietzsche, troppo umano, questo è il troppo umano, questa è la voracità che il concetto di uomo si porta dietro e che impedisce di capire non che c'è una, come dire, non che c'è una complicità, cioè perché c'è una estraneità, perché le forze che agiscono, agiscono in una dimensione che non è quella. Quella, come dire, diciamo dell'uomo, e adesso non ve lo posso leggere perché è troppo lungo, ma è bellissimo. Deleuze spiega la nascita della soggettività con il concetto di piega, con il concetto di ripiegamento, e fa, lui ha scritto un libro, il libro su Leibniz si chiama La piega, e fa anche un insomma, diagrammino molto, molto bello insomma, sulla cosa. Ma questo non posso leggerlo, però posso leggervi il resto, posso leggervi questo. Quindi c'è un fuori che non è l'esteriorità dell'animo, non è ciò che è esteriore all'animo, non è l'esteriorità dell'uomo, della madre, cioè ciò con cui la nostra interiorità, non è l'esteriorità, è un fuori più radicalmente diverso dell'esteriorità rispetto all'interiorità. Ed è il vero luogo, o non luogo, dove agiscono le forze, dove c'è questa... non dialettica ma combinazione, confronto, dove c'è questo polemos, dove c'è questa guerra continua, avrebbe detto quello lì, insomma, avete capito chi voglio dire, Eraclito. Una forza subisce l'alterazione, subisce l'affezione di altre o produce affezione su altre, ma sempre dal di fuori. Potere di produrre o subire affezioni che viene esercitato in diversi modi a seconda delle forze in rapporto. In quanto determinazione di un insieme di rapporti di forze, il diagramma non esaurisce mai la forza. Il diagramma non esaurisce mai la forza, è il modo in cui la forza agisce sulle nostre cosiddette interiorità. Il modo in cui determina i ripiegamenti, il modo in cui i ripiegamenti, capite cos'è? C'è una linea che separa il fuori dal dentro, che è lo spazio sociale in cui si forma il soggetto, ma non c'è nessun soggetto all'inizio, è soltanto quando l'azione delle forze, spero di riuscire a farlo visualizzare, crea un'inflessione, la linea torna indietro per un attimo, crea una piccola sacca, poi continua, poi ritorna su, eccola. C'è una sacchetta, c'è una piccola sacca, una fistola che si è creata all'interno della superficie di separazione tra il dentro e il fuori. L'istituto della Brice Deleuze, non c'entro niente, io non è mio il merito. E però mi ha fatto capire delle robe che sennò non avrei mai capito. In quanto determinazione di un insieme di rapporti di forza, il diagramma non esaurisce mai la forza, la quale può entrare in altri rapporti e in altre composizioni. Il diagramma proviene dal di fuori, ma il fuori non si confonde con alcun diagramma, pur continuando a lanciare sempre nuovi diagrammi. Così il fuori è sempre apertura di un futuro. Così il fuori è sempre apertura di un futuro, con il quale nulla ha termine, perché nulla è cominciato. Tutto è metamorfosi. In questo senso, rispetto al diagramma in cui è presa, la forza dispone di un potenziale o di un terzo potere che si manifesta come capacità di resistenza. Infatti, di fianco, o meglio di fronte alla singolarità di potere che corrispondono ai suoi rapporti, alle singolarità di potere che corrispondono ai suoi rapporti, un diagramma di forze presenta sempre delle singolarità di resistenza, per esempio punti, nodi, fuochi, che si attuano a loro volta sugli strati, in modo però da renderne possibile il cambiamento. 3 secoli fa alcuni sciocchi si stupivano del fatto che Spinoza volesse la liberazione dell'uomo pur non credendo nella sua libertà, nella sua esistenza specifica. Oggi credo altri sciocchi o gli stessi reincarnati si stupiscono del fatto che proprio Foucault, che aveva annunciato la morte dell'uomo, abbia partecipato alle lotte politiche. Contro Foucault costoro fanno appello a una coscienza universale ed eterna dei diritti dell'uomo, che deve restare al riparo da ogni analisi. I diritti universali, la coscienza eterna. Non è questa la prima volta in cui il ricorso all'eterno è la maschera di un pensiero troppo esile e sommario, che ignora persino ciò che dovrebbe nutrirlo, le trasformazioni del diritto moderno a partire dal XIX secolo. È vero che Foucault non ha mai attribuito molta importanza all'universale e all'eterno, che considera solo effetti massivi o globali derivanti da determinate distribuzioni di singolarità in una certa formazione storica e all'interno di un certo processo di formalizzazione. Al di sotto dell'universale ci sono giochi di singolarità, emissioni di singolarità. L'universalità o l'eternità dell'uomo sono allora solo l'ombra di una combinazione singolare e transitoria portata da uno strato storico. Il solo caso in cui l'universale coincide con l'apparire dell'enunciato è quello della matematica, perché qui la soglia di formalizzazione coincide con la soglia di apparizione, ma in tutti gli altri casi l'universale viene dopo. Foucault può denunciare il movimento di un logos che innalza le singolarità sino al concetto, perché questo logos, a dire il vero, non è che discorso già tenuto, preformato, che sopraggiunge quando tutto è già stato detto, quando tutto è morto, quando tutto è ritornato nell'interiorità silenziosa della coscienza di sé. In quanto si compie, il soggetto di diritto è la vita come portatrice di singolarità, pienezza del possibile, non l'uomo come forma di eternità. Lo devo rileggere? In quanto si compie, il soggetto di diritto è la vita come portatrice di singolarità, pienezza del possibile, non l'uomo come forma di eternità. Io aggiungo, abbiamo già dato, l'abbiamo già fatta la matematica. Il nostro contributo all'eternità è stato dato, lasciamola lì. È lì, è utile, a volte, concettualmente è utile, perché ci ha dato sfogo a questa libidine che abbiamo di eternità, di assolutezza, di cose che non cambiano, eccetera. Bene, adesso però mettiamoci a fare, mettiamoci a costruire davvero la storia, perché io credo che in fondo una cosa sola ci ha davvero voluto dire Foucault, ci ha voluto neanche esortare, poi ci lascia fare liberi di quello che vogliamo noi, ma ci ha fornito a ciascuno di noi, a tutti quelli che volessero utilizzarli, gli strumenti per agire davvero sui processi, per determinare davvero delle modificazioni, delle metamorfosi, e non le false. Le false modificazioni o i falsi cambiamenti o le false metamorfosi che sono quelli dell'adattamento dell'universale alla situazione particolare. Certo che anche questa cosa produce, come dire, cambiamenti, ma non sono i cambiamenti, non sono gli stessi cambiamenti che le forze, nel senso di Nietzsche e di Deleuze, producono. Poi certamente di Nietzsche e di Foucault producono. Poi certamente Foucault è stato acutamente diciamo ad libitum deluso da molte di queste trasformazioni, di questi cambiamenti che lui stesso ha fatto. Pensiamo a come è finita tutta la storia del Jeep, del gruppo Interversion Prison, eccetera, eccetera. Però almeno dal punto di vista della costruzione dei concetti, voi vedete che Foucault dei concetti e degli strumenti, quindi dell'indicazione delle pratiche che devono essere fatte, che devono essere agite, voi vedete che non c'è stato un momento della vita di Foucault in cui Foucault non si sia dimostrato capace di applicare al suo proprio pensiero, cioè alla storia dei propri strumenti, le indicazioni di metodo che andava ad indicare agli altri. Le ha sperimentate in primis, in primo luogo su se stesso, e per lui sperimentarlo su se stesso voleva dire ovviamente non solo avere un certo stile di vita o una certa, ma combinare questo stile di vita con il suo coraggio e con la forma del suo, come dire, pensiero. E credo che lo strumento che ci ha, la figura insomma che ci ha consegnato e che è adesso non lo so se è la più bella o se è la più affascinante o se è quella più significativa, non lo so, per me è così, è quello che spero ognuno di noi vorrebbe essere, che uno di noi forse in qualche piccolo momento della sua vita è stato, ed è ovviamente Platone di fronte a Dionisio e che gli dice la verità. È il parresiasta, è la parresia, è il dire la verità fuori dai denti, è il fregarsene delle convenzioni e non solo delle buone maniere, non solo dell'etichetta intesa in senso superficiale, ma anche fregarsene del sistema di concetti costruito, acquisito, dato per scontato in un certo ambiente. Rovesciarlo questo sistema di concetti. Ho finito l'articolo che ho scritto su Dico oggi per il manifesto citando questa frase che è credo inconsapevolmente foucaultiana del mio collega Umberto Rossi, però chiaramente foucaultiana. La verità è un evento. La verità è un evento. La parresia è la capacità di produrre degli eventi. Produrre degli eventi è ciò di cui abbiamo, credo, disperatamente bisogno oggi, forse più oggi che in altre epoche storiche, comunque ne avremo bisogno, io credo, sempre. È molto difficile rivelarsi all'altezza di questo, come dire, modello, ma credo che non ci sia niente di meno che ognuno di noi possa fare e debba fare per essere fedele non a se stesso, ma al suo fuori, a ciò che lui non è, a ciò che non siamo. E a questo dobbiamo essere fedeli. E per essere fedeli a ciò che non siamo, non possiamo fare altro che provare a dire la verità. Grazie.